Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Il nostro viaggio nelle storie di espatrio dei giovani professionisti del bel paese, dai ricercatori ai professori universitari, dai manager ai creativi, si arricchisce oggi di un nuovo capitolo. Vi portiamo con un salto intercontinentale dall'Australia fino alla Spagna, da Sydney a Barcellona, per scoprire come sono questi oggi i luoghi in grado di offrire interessanti opportunità di lavoro a giovani di talento, giovani che magari in Italia si sono visti sbarrare la strada da corporativismi o peggio da assurde barriere generazionali, ma che all'estero ce l'hanno fatta. Parleremo di professioni intellettuali, professioni creative, professioni che richiedono testa, capacità di pensiero, a volte anche abilità linguistiche, non indifferenti. Ma nulla è impossibile se solo qualcuno ti fornisce quella opportunità troppo spesso negata ai giovani in Italia. Per cominciare prendiamo allora un volo intercontinentale, affrontiamo ore e ore di viaggio e sbarchiamo a Sydney per ascoltare la storia di Simone Bartolini, 29enne creativo pubblicitario originario di Roma. Nome: Simone. Cognome: Bartolini. Età: 29. Città di origine: Roma. Studi: liceo classico, laurea in comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? In Australia. Perché? Perché volevo mettermi alla prova dall'altra parte del mondo, crescere e migliorarmi. Quale lavoro svolgi attualmente? Creativo pubblicitario. Dove? In un'agenzia di pubblicità a Sydney. Tornerai? Beh, è il mio paese, se ci fosse una opportunità seria di vivere e lavorare con dignità, sì, mi farebbe piacere. I Temper Trap, Sweet Disposition, per introdurre l'Australia con uno dei gruppi musicali oceanici che più hanno spopolato negli ultimi mesi a livello internazionale. Simone, in una email a giovanitalenti@radio24.it hai usato un'espressione molto forte. Hai scritto: l'Italia fa partire i suoi figli e violenta quelli che restano. Prendere lo stipendio o avere un contratto decente in Italia sembra ricevere un favore. La scelta ormai è accontentarsi o andarsene. Simone, qualche tuttologo televisivo di quarta categoria ti attaccherebbe duramente per quello che dici, direbbe che sei un anti-italiano, eccetera. Io no. E ti chiedo anzi di spiegare questa tua espressione perché temo che sia maledettamente vera. Io posso dirti che non mi sono mai sentito così italiano come in questo momento. Io sono ormai 3 anni che sono partito e ho sviluppato un senso di appartenenza e di identità fortissimi. Sono orgoglioso di essere italiano. Mi dispiace che vedo tante persone, tanti ragazzi che forse non lo sono, forse non riescono a vedere bene la situazione, perché dall'estero è una situazione abbastanza complicata, difficile. Confermo pienamente quello che ho detto e ho delle conferme anche dai miei amici che mi scrivono, da altri ragazzi che mi hanno scritto quando tenevo il mio blog all'inizio della mia esperienza qui. Partiamo però dalla tua storia, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato in Australia e partiamo dai tuei studi, quelli fatti però in Italia. In Italia io mi sono diplomato al liceo classico nel 2000 con il massimo dei voti, sono sempre stato appassionato di cultura e del potere e dell'etimologia delle parole. Questo mi ha portato a scegliere studi classici. Mentre facevo il liceo ho capito che volevo fare il copywriter pubblicitario e ho iniziato a seguire questa passione. Con grande entusiasmo mi ha portato ad iscrivermi ad una laurea in comunicazione e mi sono laureato sempre con il massimo dei voti nel 2005, sempre a Roma. Mentre studiavo, spinto da questo entusiasmo per questo mestiere, ho iniziato a lavorare circa un paio di anni prima. Quali esperienze di lavoro hai fatto? Perché poi tu arrivi anche ad avere un contratto a tempo indeterminato in Italia, ricordiamolo. Io ho iniziato a lavorare nel 2003, avevo poco più di 23 anni, quasi 23 anni. Mentre facevo l'università decisi di seguire un corso di scrittura creativa tenuto da due importanti direttori creativi di una multinazionale della sede romana, di una multinazionale pubblicitaria. Lì ho potuto sviluppare con loro un bellissimo rapporto e hanno supervisionato il mio portfolio. Dopo qualche mese era pronto, lì iniziai poi a cercare lavoro a Roma. Iniziai con uno stage in un'altra agenzia di pubblicità, dopo qualche mese cambiai e trovai lavoro nella sede romana di una grande multinazionale americana. Andò subito benissimo, avevo inizialmente un rimborso spese che poi dopo qualche mese fu trasformato in un contratto a progetto, visto il successo di alcuni progetti che stavo seguendo. Simone, tu infatti all'inizio in quell'agenzia vieni molto apprezzato, tanto che addirittura ti danno il permesso di recarti a New York. Tu a New York fai una bella esperienza, siamo nel 2005, l'estate del 2005, dici: a New York io apro gli occhi sul mondo, inizio ad avvertire il desiderio di crescere personalmente come professionista, partendo dalla voglia di migliorare il mio inglese e di conoscere nuove culture. Poi però c'è il ritorno in Italia e purtroppo la disillusione. New York è stato un punto di svolta, perché seppur l'esperienza sia stata breve, comunque ho capito che è stato il germe, diciamo, che ha contribuito a creare in me questa voglia di migliorarmi, di andare all'estero, migliorarmi anche a scrivere fluentemente in inglese e capire come funzionavano nuove dinamiche, nuovi modi di approcciare a questo mestiere, nuovi modi di vedere e di fare questo lavoro. Quando sono ritornato in Italia da questa esperienza, purtroppo si sono create delle dinamiche all'interno del lavoro non positive. Vedevo che il mio entusiasmo, la mia voglia di fare non veniva premiata, vedevo gente intorno a me, anche più grande, che non aveva contratti decenti, che non veniva retribuita per il loro valore, i loro successi non venivano celebrati, ma anzi taciuti. Ho capito che, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, probabilmente non era questo il modo migliore di crescere. Mi sentivo fermo. Simone, c'è una frase che tu hai scritto a giovanitalenti@radio24.it che mi ha colpito veramente. Sono giovane, vulcanico, desideroso di fare, di migliorare, esuberante, ma questo viene preso in modo, non so perché, non sempre positivo. Iniziano ad essermi messi bastoni tra le ruote, testuali parole. Ricopro lo scomodo ruolo espiatorio di colpirne uno per educarne 100. Ma questo, stiamo parlando di un ambito creativo. Questa è una cosa che non sono riuscito mai a capire, sinceramente. Come tutte le persone, come tutti i ragazzi che vogliono crescere, ero sicuramente esuberante, ho cercato di fare tutto quello che riuscivo a fare, anche di più, essere pieno di iniziative, insomma, questo è il mio carattere. Questo magari non è stato preso sempre in modo positivo, ho commesso anch'io certamente qualche piccolo errore, ma credo sia normale, come accade in tutte le persone. Vedevo anche altre persone, con tutto quello che di positivo veniva fatto era dato per scontato. È pazzesco. Mentre invece al primo errore si aveva il dito puntato contro. Simone, forse l'aggravante, purtroppo lo dico fuori dai denti, è che eri troppo giovane e non è un paese per giovani questo. Comunque tu, diciamo, nel 2007 decidi che si può anche stracciare un contratto a tempo indeterminato se non è pagato benissimo e se soprattutto non ti dà quella possibilità di esprimerti e di esprimere tutto il tuo potenziale, e vai in Australia, giusto? Sì, ho deciso di fare il salto, avevo 26 anni, mi sono detto adesso o mai più. Avevo comunque voglia, questa voglia mia personale, di imparare dalla pubblicità anglosassone, che guida comunque le tendenze mondiali. Volevo migliorare nel mio inglese, volevo crescere proprio e poi fare un'esperienza all'estero per poi tornare, magari nel mio piccolo, contribuire a migliorare, a contribuire a un cambiamento. E quindi mi sono messo in discussione totalmente e, da creativo, ho voluto aprire la mia testa e andare a vedere cosa c'era dall'altra parte del mondo. Ti si apre un mondo alla fine in Australia, cosa scopri, cosa sperimenti? È un nuovo modo di vedere le cose. Sperimento una società sicuramente positiva e una società dove c'è grande rispetto per le persone, per il loro lavoro e per la loro vita al di fuori del lavoro, e c'è grande fiducia. E credo che questi siano i due valori fondamentali per una società, sia per i rapporti umani, sia per poi sviluppare rapporti professionali. E ho fatto inizialmente una gavetta molto dura, non è chiaramente un paese che sta ad aspettare noi che arriviamo, però questo ha premiato, seminando con impegno, con sacrificio, con voglia di fare, alla fine questo mi ha premiato e sì, mi ha aperto un mondo. Tu però non ti fermi lì, perché vuoi dare un'altra occasione in qualche modo all'Italia e torni anche forse pieno di voglia di fare, di iniziativa, dicendo: beh, ora ho un buon background, valorizzatemi, scoprite anche il mio talento. E cosa ti trovi? Ho trovato un muro, devo dire che ho trovato un muro. L'esperienza in Australia, sono rimasto un anno, è stata straordinaria. Dopo un anno il mio visto era scaduto e poi non potevo rinnovarlo in quel momento, e poi il cuore mi riportava in Italia. Io volevo semplicemente fare un'esperienza all'estero e poi tornare e dare il mio contributo alla pubblicità, al paese, o insomma nel mio piccolo fare qualcosa. Ho trovato invece un muro, facce tristi, sconsolate, consigli di tornare all'estero, o dovremmo pagarti bene, alla tua età troviamo altre persone a costo zero, torna all'estero, torna quando sarai direttore creativo. Insomma, sono parole che mi hanno lasciato sconsolato, mi hanno lasciato l'amaro in bocca. Devo dire che sono dovuto riandare via con la sensazione di essere un innamorato non corrisposto. Alla fine rifai i bagagli, prima vai a Londra e poi torni nuovamente in Australia, dove ti trovi ormai da pochi mesi e probabilmente a questo punto ci resterai per molto tempo. Di cosa ti occupi? Cosa fai adesso? Io allora sono sempre creativo pubblicitario, ho una posizione senior e quindi sono responsabile su clienti nazionali ed internazionali, guido un team creativo nella mia agenzia e sviluppo campagne, creo e sviluppo campagne. Nel frattempo comunque, quando c'è la possibilità, ho diversi rapporti con le agenzie italiane e riesco comunque a portare il mio lavoro anche in Italia. Paradossalmente, quando cercai di tornare in Italia, dall'interno non ci fu nessuna possibilità, quando poi tornai all'estero mi chiamarono per fare pubblicità per l'Italia dall'estero, che se vogliamo è un paradosso. È un paradosso. E accade tuttora, io sono felicissimo di questo. È un vero paradosso. Simone, c'è un'espressione che tu hai usato e mi ha colpito molto nell'email che ci hai scritto. In Australia ci sono delle autostrade sociali. Raccontaci cosa sono queste autostrade sociali, perché qui non le vediamo. Le autostrade sociali sono basate su quei due valori fondamentali del rispetto e della fiducia. C'è coraggio, c'è voglia di fare, non si sta solo a chiacchierare, si fanno le cose. Simone, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? In un flash. Vedo l'Italia come un paese fermo. Tutto il mondo si muove, tutto il mondo gira. L'Italia purtroppo è un paese fermo. E questa è una cosa che da italiano all'estero dispiace veramente. È come se fosse una bellissima mela verde appetitosa dall'esterno, ma come la si morde dentro e marcia. Prima di proseguire con questo viaggio nel mondo dei nostri giovani espatriati, apriamo Spazio ai Migranti, dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Anticipiamo lo sbarco a Barcellona, che faremo subito dopo il traffico, con la storia di Sabina, per parlarvi di italiansinbarcelona.com, associazione che riunisce numerosi nostri giovani professionisti in terra catalana. L'ideatore e fondatore Roberto Bosco. L'idea di creare Italians in Barcellona è nata un po' per caso, un po' per gioco, nel senso che mi trovavo in un momento particolare della mia professione in cui, pur avendo un lavoro, volevo cambiare attività e cercavo qualcosa qui a Barcellona che fosse collegata all'ambiente degli italiani, e pensavo, con tutti gli italiani che ci sono è difficile entrare in contatto con queste realtà, se ci fosse uno strumento che fosse capace di catalizzare quasi tutti questi contatti, questi italiani che vivono e lavorano a Barcellona, sarebbe certamente più facile. E ho iniziato un po' così, cercando italiani su LinkedIn e invitandoli a un gruppo, e poi da lì è nata l'idea di creare italiansinbarcelona.com. Raccontiamo però anche questa immigrazione italiana a Barcellona. Si è detto, soprattutto negli ultimi anni, che Barcellona è diventata la Mecca dei giovani professionisti italiani. È così, Roberto? E soprattutto poi anche quanti siete in Italians in Barcellona? Ma in Italians in Barcellona siamo circa 140 iscritti, è un progetto nuovo, è vero che stiamo crescendo poco ma bene, è un media di 4-5 iscritti al mese, ci stiamo strutturando, quindi per il momento non vogliamo neanche dare troppo risalto alla nostra iniziativa. Per quanto riguarda il discorso della Mecca di Barcellona per gli italiani, beh, è un fenomeno sicuramente complesso, è vero che ci sono tanti ragazzi che trovano una qualità della vita superiore qui rispetto in Italia, diciamo che 1000 euro in Italia qui ti permettono una vita che magari in Italia non ti permettono. Anche in tempo di crisi? Sì, anche in tempo di crisi, ovviamente è tutto più complicato, però sono ad esempio convinto che per culture, per caratteristiche, gli italiani riescono sempre ad avere una marcia in più e a uscire, a trovare delle occasioni anche nei momenti di crisi. Magari qui i catalani, gli spagnoli in genere, faticano un po' perché non sono abituati al concetto di crisi come noi. Quali sono le professioni che vengono soprattutto attirate a Barcellona? Parliamo ovviamente di giovani professionisti italiani. C'è un po' di tutto, ci sono architetti, ci sono avvocati, io ne sono un esempio, ci sono persone che lavorano soprattutto anche nel settore commerciale, nelle vendite, in comunicazione, cultura, molti nell'informatica, nell'insegnamento, qualcuno anche nella ricerca, nella medicina, traduzioni, direi che c'è veramente un po' di tutto. E perché lasciano l'Italia? Non credo che ci sia molta gente che a tavolino sceglie di lasciare l'Italia per andare a Barcellona, penso che comunque Barcellona è una città molto conosciuta, magari la gente ci capita la prima volta in vacanza, si trova bene, conosce qualcuno e decide di approfittare questo contatto per trasferirsi e vedere se va bene, poi magari sì, va bene e rimane. E parlando invece appunto della vostra associazione, cosa fate? Quali attività o comunque iniziative organizzate? Fino adesso abbiamo creato la struttura, il forum, la pagina web, abbiamo cercato di avere una massa critica di iscritti e adesso inizieremo a organizzare attività, incontri fissi mensili e anche attività culturali. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansinbarcelona.com. Giovani talenti. bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Proseguiamo anche oggi il nostro viaggio all'interno del mondo della nuova emigrazione. Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia di Simone Bartolini, creativo pubblicitario di Stanza Sydney, passiamo ora a raccontarvi la vicenda di Sabina Pulvirenti, siciliana di 30 anni, direttrice di contenuti per un importante portale web specializzato in recensioni informatiche. In Catalunya ha trovato la sua dimensione di vita e di lavoro. Nome: Sabina. Cognome: Pulvirenti. Età: 30 anni. Città di origine: Acireale, provincia di Catania. Studi: Lettere moderne con indirizzo storico, poi SIS, infine Master in comunicazione web e nuovi media. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Barcellona. Perché? Perché avevo trovato il tipo di lavoro che desideravo. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore di contenuti. Dove? Su www.softonic.it. Tornerai? Forse, se le cose cambiano, se cambio io. Barcellona. Non puoi seguir inventando che il mondo sia altra cosa e volar come mariposa. Barcellona. Giovani neolaureati, spesso delusi dal panorama politico e sociale dell'Italia e dalla mancanza di opportunità professionali in patria, vedono in Barcellona la città giovane, dinamica ed efficace che non trovano più nel loro paese. Così il sito Barcellona Blog dipinge la nuova emigrazione italiana nella capitale catalana, da diversi anni la nuova capitale, appunto, scelta dagli under 40 del nostro paese. Il consolato italiano ci ha fornito qualche cifra: gli italiani iscritti all'anagrafe consolare sono poco più di 29.000 nell'intera regione della Catalunya, 12.194 dei quali risiedono a Barcellona città, 23.594 coloro che vivono nell'intera provincia barcellonese. Gli under 40 nati in Italia sono 2.442 a Barcellona città e 1.220 nella provincia di Barcellona, per un totale di 3.662. Questa un'introduzione statistica. Tra questi giovani italiani emigrati c'è Sabina Pulvirenti, l'avete appena ascoltata, direttore di contenuti del sito softonic.it, che fa parte del più ampio portale Softonic. Buona tarda, Sabina. Buon pomeriggio. Buona tarda, ovviamente, per chi vive in Catalunya è un po' una espressione ricorrente, se ci si vuole salutare di pomeriggio, in lingua catalana. Allora, Sabina, iniziamo subito con la tua storia, il tuo percorso di studi. Come arrivi a Barcellona, ma partendo proprio dalla tua vita, insomma, come arrivi appunto nella capitale catalana? Sin da piccola, l'unica cosa che ho saputo è che non potevo fare a meno di scrivere. Addirittura forse ho imparato a scrivere prima di iniziare a parlare per davvero, quindi il mio percorso di studi era obbligato. In Sicilia, specialmente nella provincia di Catania, dove le possibilità erano e sono abbastanza limitate tuttora, il percorso era abbastanza obbligato. Per prima cosa ho fatto il liceo classico ad Acireale e poi una laurea in lettere moderne con indirizzo storico a Catania. Ovviamente però con una laurea in lettere moderne non fai nulla al giorno d'oggi, quindi finita l'università pensavo di specializzarmi in storia del territorio e poi magari fare un dottorato sempre in storia. Però lì la prima delusione, perché in realtà riuscii ad accedere a questo master, però per problemi burocratici mi esclusero e rimasi per un anno ferma. E quindi iniziai a fare, siccome volevo scrivere, iniziai a fare collaborazioni sporadiche con vari giornali e riviste della zona, che però hanno un problema, che nascono e muoiono un po' come funghi, spinte da sovvenzioni abbastanza sporadiche. E quindi era difficile riuscire a scrivere quei 70 articoli in 2 anni che ti permettono di accedere all'esame per diventare giornalista pubblicista, che era poi il mio scopo principale. Quindi più passava il tempo più mi accorgevo che il sogno di diventare giornalista, che era parallelo a quello di specializzarmi in storia, era abbastanza difficile da realizzare a Catania. E anche perché per entrare in riviste 6 e 2 ature dovevi conoscere qualcuno e avere la classica raccomandazione, che ormai in Italia sappiamo che... ti apre tutte le porte, senza raccomandazione se sei giovane non vai da nessuna parte, temo. Esatto, esatto. Almeno in Italia le mie esperienze sono state queste, senza generalizzare troppo. Soprattutto nel mondo della comunicazione, purtroppo. Sì, e quindi ricordo che mandai infiniti curriculum in diversi giornali, tra cui la Sicilia, cercai di, un aneddoto che mi viene in mente, cercai di parlare una volta, un afosissimo giorno d'estate con un giornalista che era impossibile riuscire a contattare, ma niente, non furono tutti tentativi inutili, non riuscii nei miei intenti. Quindi alla fine cosa pensai? Di fare quello che faceva mio padre, cioè di fare l'insegnante. E quindi feci l'esame per accedere alla SIS e ci riuscì. Però anche lì il mondo dell'insegnamento ti ha dato un po' di delusioni, no? Esatto, perché durante il tirocinio resi conto che fare l'insegnante non era semplice come pensavo all'inizio, che mi aspettavano anni di precariato, un ambiente dove a nessuno importava in realtà quello che facevi, dove gli studenti erano quasi tutti passivi, alcuni addirittura aggressivi, i genitori ancora di più. Quindi cominciavo anche a pensare che magari in realtà io volevo scrivere, non era l'insegnante quello che volevo fare nella vita. Tu avevi un sogno, era quello di essere giornalista o comunque lavorare nel mondo della comunicazione. A quel punto scatta qualcosa e ti porta lontano dalla Sicilia, giusto? Esatto, a volte ci sono delle svolte nella vita che non ti aspetti e che ti mettono davanti a delle scelte. E infatti ricordo che nello stesso giorno mi proposero un contratto, pseudo contratto, in una scuola privata dove non mi avrebbero pagato per tutto l'anno, però sarei riuscita a insegnare e quindi a ottenere il punteggio che mi permetteva di avanzare nelle graduatorie permanenti delle scuole. E nello stesso giorno ricevetti la proposta di uno stage a Roma in una casa editrice, rivista, con cui avevo fatto un corso di scrittura per corrispondenza e che quindi mi permetteva di accedere al mestiere che avevo immaginato, che avevo desiderato sin da piccola. E lo stage era soltanto di un mese inizialmente, quindi la scelta più saggia sarebbe stata quella di scegliere il lavoro di un anno. Però scelsi lo stage e andai a Roma. In realtà poi quel lavoro durò soltanto 2 mesi. Mi proposero un po' a malincuore di rimanere di più, però ovviamente sarei dovuta rimanere senza contratto, senza nessun contributo speso di nessun tipo, e vivere a Roma sarebbe stato difficile, cioè continuare a mantenermi mio padre. Avresti dovuto lavorare per la Gloria, e a quel punto che esatto. Cosa ti porta a un certo punto verso la Spagna? E anche qui tutti dipingiamo la Spagna, o abbiamo dipinto la Spagna, come un paese più arretrato del nostro, un paese attualmente in crisi, eccetera, eccetera. Però paradossalmente a un giovane che voglia lavorare nel mondo della comunicazione, come nel tuo caso, ha offerto un contratto migliore e prospettive migliori. Raccontaci. Io in realtà rimasi a Roma un altro anno per un master in marketing e comunicazione web e nuovi media, e poi per un altro stage in un'agenzia di pubblicità. E dopo questo stage mi ero intanto iscritta al portale infojobs.it, avevo fatto domanda per una posizione di lavoro all'estero. In quel momento il mio fidanzato viveva a Barcellona, quindi pensavo di spostarmi. E a Barcellona mi contattò improvvisamente Softonic attraverso il portale infojobs.it per questa posizione di lavoro come redattore sul sito che stava lì per nascere lì a poco, che era softonic.it. E fino a quel momento il portale esisteva soltanto in spagnolo, in inglese e in tedesco, e pensavano appunto di aprire una sezione italiana. Io non avevo grandissime conoscenze informatiche, a parte quello che facevo ogni giorno, cioè cercare nuovi software per i miei amici, per il mio computer, e a parte il master che avevo fatto, che comunque era relativo al web. E quindi ero abbastanza scettica sulla possibilità di ottenere il lavoro, anche perché non conoscevo nessuno a Barcellona e non conoscevo nessuno a Softonic, e quindi mi sembrava abbastanza difficile. Ma che succede? Dopo un test che feci online, un colloquio che durò 40 minuti e che a mio modo di vedere è anche andato male, mi presero, e il mio capo di allora mi disse che il mio modo di scrivere, che era riuscito a leggere su uno dei miei blog, era quello che ci voleva per il sito, che vedeva che avevo talento e che mi dava fiducia. E quindi mi diedero il posto di lavoro. Tu ti trasferisci a un certo punto a Barcellona, dove trovi un ambiente di lavoro inaspettatamente ad alto livello, tanto che Softonic è stata votata come migliore posto di lavoro, best workplace in Spagna, e qui ti chiedo di raccontare, e arrivi poi anche a ricoprire una posizione importante, direttore di contenuti. Allora, raccontaci il tuo impatto con la Spagna, come vivi ora, di cosa ti occupi? Al momento sono direttore di contenuti su Softonic Italia, dopo aver scritto 1500 recensioni in un anno e mezzo, ho 30 anni compiuti da poco e pochissima esperienza, in realtà ho fatto solo project manager in Italia per alcuni mesi, e una posizione del genere in Italia al momento credo che sarebbe impossibile da ottenere, o quasi, soprattutto per la mia giovane età e per la mancanza di esperienza. E la cosa positiva di Softonic è che riesce a dare fiducia, ma fiducia totale e piena, ai giovani che lavorano lì. Ed è una delle caratteristiche più importanti della società. Siamo tutti giovanissimi, tra i 25 e i 35 anni per la maggior parte, e l'ambiente di lavoro internazionale, siamo di 20 nazionalità diverse, e il clima che si respira è un clima aperto, un clima allegro, un clima giovane appunto, molto diverso da altri climi che ho respirato in altri posti di lavoro in Italia. Sabina, tu Ci scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Il fatto qui che essere giovani è un vantaggio, ti si affidano delle responsabilità importanti senza se e senza ma. Si crede nella tua creatività e nella tua onestà. In Italia no, in Italia ti insegnano a essere insicuro di tutto, del tuo lavoro, di quello che sei e di quello che vali, ed è un circolo vizioso. Spiegaci. In realtà quello di cui ci rendiamo conto in Italia è che chi ha già un lavoro, sono tutte delle persone adulte che mantengono il lavoro, magari una posizione a tempo indeterminato da anni, e magari senza meriti. In realtà un giovane che potrebbe avere talento, potrebbe avere creatività e delle idee innovative viene lasciato indietro per mantenere il posto di lavoro, che è quasi un privilegio di queste vecchie leve che è difficile da scalzare dai posti di lavoro italiani. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa non va? Cosa cambieresti e come? Un po' l'hai già detto, però sintetizziamolo. Più fiducia ai giovani, e quindi posti di lavoro aperti ai giovani. Poi meno burocrazia sicuramente, una delle principali differenze che ho visto qui a Barcellona è questa: in un giorno puoi fare tutti i documenti che ti servono per lavorare senza essere rimandato da un ufficio all'altro come succede in Italia. E poi un cambio nelle leggi italiane che permetta di ridurre la difficoltà di interrompere un rapporto lavorativo a tempo indeterminato di qualcuno che magari non se lo merita. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Fino a fine luglio terremo aperta questa discussione, sulla quale vi riferiremo in modo esteso nella prima puntata autunnale di Giovani Talenti il 18 di settembre. Quali sono le vostre proposte concrete per rendere l'Italia un paese per giovani? Questo sia per evitare il crescente espatrio di professionisti under 40 in tutti i settori, sia per invogliare a tornare chi si è già trasferito all'estero? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Attendiamo le vostre lettere che pubblicheremo online sul blog. Scriveteci. E siamo sempre alla caccia di storie per le puntate autunnali di Giovani Talenti. Sei giovane e under 40, laureato o laureata, magari con master, emigrato o demigrata dopo svariati tentativi di affermarti professionalmente in Italia andati a vuoto? Espatriato o espatriata grazie a un contratto ottenuto per merito e selezione che ti ha permesso, pur ventenne o trentenne, di raggiungere posizioni professionali inimmaginabili per te in Italia? Nonostante ciò, non riesci a trovare posizioni equiparabili nel bel paese nell'ottica di un ritorno? Beh, allora scrivici a giovanitalenti@radio24.it. Ti daremo voce. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava.